che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, lì di fronte te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Don't.

Donde la música puede preguntar muchas cuestiones y puede dar muchas respuestas.

Buonasera a tutti, benvenuti. Mi presento, sono Gigi D'Agostino, per chi non lo sapesse, volevo presentarmi. È un benvenuti dentro la musica. Baby, and we'll fly away. cominciare da zero. Giusto è di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. My dream is to fly over that. sera ti risvegli col sole, è chiara come un'alba, c'è fresca come l'aria. Menti rosse se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi e i tuoi pensieri. Thank you. Yo! Welcome to spitkicker.com. We'll be right back. chi non alza le mani è un cazzaro.

you go. Leave me alone, so I never let you go. I'm looking for your face, waiting for warm embrace. I'm living in the space, I'm following your trace. Tell me what's going on, tell me what's going on. bass. We'll be right back. Thank you. Thank you. Grazie a tutti per questa splendida nottata. Grazie!